Kellogg. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. 100 miliardi di euro ogni anno finiscono nella pattumiera. Metà della frutta e della verdura e poi cereali, carne e pesce. Oltre 200 milioni di tonnellate nel solo Occidente. 20 in Italia basterebbero a cancellare la fame dal pianeta. Noi stiamo disperdendo il cibo a partire da tutti i passaggi della catena di distribuzione, nelle fattorie, nei negozi, nei ristoranti e nelle nostre case. 45 kg a persona di cibo gettato nella pattumiera, per uno spreco pro capite di 117 euro l'anno. Cifre che a livello nazionale fanno ancora più impressione: 5 milioni e mezzo di tonnellate di alimenti per un valore di 12,3 miliardi di euro. Eppure, alla faccia della crisi, solo una piccola parte di questo cibo, il 6%, viene recuperata e ridistribuita grazie a enti caritativi o banche del cibo, mentre si potrebbe raggiungere tranquillamente quota 50%. E tante famiglie sicuramente ringrazierebbero... Certo, mi viene da pensare che ancora parlare di crisi vera, crisi cosciente, crisi reale, crisi come quella che hanno conosciuto i nostri nonni e per qualcuno anche i genitori, ce ne vuole. Se in Italia ci possiamo permettere di buttare via 12 e passa miliardi di euro all'anno in cibo, significa che da qui a fare la fame ne passerà. Ma detto questo, che può sembrare semplicemente un paradosso, una forzatura, forse vale la pena questa mattina interrogarsi sul cibo che buttiamo. Io appartengo a una generazione che aveva ormai una sorta di sacro condizionamento a non buttare il cibo. Addirittura a casa mia dava fastidio, veniamo rimproverati se il pane veniva appoggiato rovesciato sulla tavola. Figuriamoci in che civiltà arcaica sono stato allevato. Ma buttare il cibo non si buttava mai via nulla, c'erano questi recuperi familiari di seratine fatte con gli avanzi. Oggi è ben diversa la cosa. Oggi il frigorifero di casa mia assomiglia a un obitorio, perlomeno nella parte più interna, in cui nessuno va mai a vedere quello che rimane. Molte volte sono cose che sono state acquistate, dimenticate lì, e ogni tanto ci si accorge che un cadavere nel frigorifero e stira fuori la mozzarella diventata verde, e il pacchetto col prosciutto ammuffito e via dicendo, e dispiace. Uno dice: vedi, peccato, non me ne sono accorto. Ma probabilmente, pur vivendo in momenti di ristrettezza, di indigenza, di attenzione generalizzata sulle spese, ancora sul cibo ci sembra di poter largheggiare. Beh, oggi invece vorremmo dare un po' i conti di quanto cibo sprechiamo e quanto in realtà questo cibo potrebbe essere recuperato. Ma recuperato significa non andare a prendere nel cassonetto gli avanzi degli altri, no, attraverso una saggia e controllata filiera, invece che buttarlo, ridistribuirlo per le persone che ne hanno meno o che non ne hanno per niente. 800 24 00 24, vediamo se qualcuno di voi ha dei suggerimenti in proposito o si è reso conto o si è accorto di questo tipo di problema. Ogni giorno ai tavoli di questa mensa per i poveri siedono più di 300 persone e gran parte del cibo che viene offerto loro proviene dalle eccedenze di negozi, supermercati, catering e mense aziendali e scolastiche. Si tratta di cibo, come la metà circa di quello prodotto nel mondo, destinato, secondo un'indagine britannica, a finire nel bidone della spazzatura, salvato ed utilizzato nel pieno rispetto delle leggi per dare da mangiare a chi non ne ha. Viene consegnato in vaschette sigillate con l'indicazione del produttore, della provenienza dell'ente che lo dona. Le mense per i poveri, diffuse in tutto il paese. Andrea Giussani, buongiorno. Buongiorno. Andrea Giussani è presidente della Fondazione Banco Alimentare Ollus. È possibile, secondo lei, dare un'informazione senza mettere le persone addosso l'ansia, dare sensi di fastidio, diciamo, io non andrei mai a prendere, a mangiarmi delle cose buttate da altri? Esattamente cosa significa recuperare il cibo che altrimenti andrebbe buttato? Sì, parto velocissimamente da una premessa. Quando parliamo, come diceva lei prima, dei 13 miliardi di spreco, in realtà dobbiamo considerare che di questi una gran parte non è assolutamente recuperabile. Faccio l'esempio dell'avanzo di porzione sul tavolo di casa nostra, piuttosto che ovviamente della mozzarella verde orrenda descritta prima. No? Però è sempre un mal costume, perché in realtà certo, la spesa dovrebbe essere parametrata ai bisogni. Uno si vede che compra più cose di quelle che può consumare e poi se le dimentica. Capita. Certo. E quindi in questo senso noi della Fondazione Banco Alimentare, della rete Banco Alimentare, dividiamo il mondo, se vuole, in due metà. Una è quella, che sono proprio circa la metà, una è lo spreco di casa nostra, del consumatore, che non è recuperabile, ma può essere eliminato, no, diminuito da un'educazione diversa, da un comportamento diverso, da un'attività della massaia, del compratore, del cliente più attento. Noi invece, Fondazione Banco Alimentare, ci occupiamo dell'altra metà, la metà nella quale agricoltura, produzione, distribuzione e catering gettano circa la metà di questi 13 miliardi, ma che sarebbero in gran parte recuperabili, non tutti, ma in gran parte recuperabili. Gli esempi più tipici sono un eccesso di produzione per delle campagne di marketing in cui il packaging non è più buono e quindi non può essere più messo sugli scaffali del supermercato. Però il prodotto dentro è perfettamente commestibile. Assolutamente. Tutti i prodotti che noi gestiamo. Cosa significa? Mi scusi, perché io sono pignolo. Cosa significa il packaging che non è più buono? La confezione non c'è. Lei immagini, se va al supermercato e vede una fila di scatolette, che so io, di tonno, due ammaccate, le altre perfette. Ah, sono rovinate esternamente. Ah, ecco, sono rovinate semplicemente. Piuttosto che la vicinanza alla data di scadenza. Tutti, quando compriamo lo yogurt, guardiamo la data e prendiamo la più lontana. Eh sì, perché i supermercati, quelle più, diciamo, più recenti, le mettono dietro perché la gente prende le altre. Noi andiamo a scavare dietro le bottiglie di latte per prendere l'ultima arrivata, naturalmente. Esatto. Quindi tutta una serie sia di comportamenti sia di eventi negativi ineliminabili, la rottura del pallet, il fatto che, per esempio, io ho fatto delle etichette con 3x2, ma le 3x2 è finito, non posso più metterle sullo scaffale. Quindi tutta una serie di eventi che rendono una parte degli alimenti, una grande parte di alimenti, perfettamente commestibili e qualitativi, ma non più commercializzabili. Questi sono il nostro oggetto. Posso fare un'altra domanda riguardo alle scadenze? I prodotti scaduti ai supermercati che fine fanno? Vengono buttati o c'è ancora una catena di recupero che, siccome la scadenza poi non è un termine così ferreo, riempiega anche quelli? Dunque, qui c'è un aspetto normativo per il quale un prodotto scaduto non può essere commercializzato per legge, perché potrebbe, poi sappiamo benissimo che lo yogurt anche 3 giorni dopo la scadenza è buonissimo, però da un punto di vista normativo questo rischio è maggiore dell'opportunità, è considerato maggiore dell'opportunità, quindi il supermercato se ne deve liberare. Ha dei costi di smaltimento e di trasformazione in rifiuto. Noi cosa facciamo? Cerchiamo di prevenire l'evento e quindi sia dai produttori che dai distributori andiamo a recuperare queste eccedenze che da loro vengono rese disponibili invece che essere gettate. Questo è il nostro lavoro. E quindi sarebbe, in teoria sarebbe a costo zero. Le faccio un esempio, tanto per far capire al pubblico. Lei ha parlato di yogurt, uno yogurt andarselo a prendere 2 giorni prima della data di scadenza, perfettamente commestibile, in realtà il prezzo di mercato sarebbe vicino allo zero, per chi lo compra lo yogurt che scade il giorno dopo, ad esempio. Sì, non solo, ma l'azienda di distribuzione e di produzione ha dei costi di smaltimento, perché non è gratuito, deve seguire una serie di procedure. Quindi l'idea che noi abbiamo proposto, ma che è seguita anche in tutta Europa, nel mondo direi, è quella di anticipare l'evento della scadenza, prendere noi in carico queste merci, questi alimenti, e distribuirle molto rapidamente ai nostri interlocutori, che sono in Italia quasi 9.000 strutture caritative, che a loro volta dovranno poi distribuirle alle messe dei poveri, alle famiglie, sotto forma di pacchi. Ci fermiamo un attimo, sentiamo qualche ascoltatore, credo che c'è stata risposta, abbiamo toccato un argomento probabilmente subliminale ma sentito. Marco, buongiorno. Salve Nicoletti, senta, io credo sia ora che la smettiamo di prenderci in giro, sebbene queste persone abbiano dei meriti straordinari, quelli del Banco Alimentare, è il nostro sistema di mercato che porta queste cose qui. Le faccio un esempio, io lavoro per un'azienda che smaltisce i prodotti in eccesso dei supermercati. A questo punto, se queste persone qui mi portano via il lavoro perché regalano la roba, io vado in crisi. Lei dice, lei deve lavorare, quindi deve buttare via la roba che altri potrebbero mangiare, questo è il suo punto di vista. No, io praticamente smaltisco le cose per conto dei supermercati. Lo so, lei ha paura di perdere il lavoro, dice, quelle cose che lei aiuta a buttare via. Però nello stesso tempo di avere 15-20 mila bambini che muoiono di fame perché noi buttiamo via la roba. Ma qual è il punto? Lei teme di perdere il suo posto di lavoro? Se io smaltisco, separo l'alluminio dallo yogurt, dai cucchiaini di plastica e via dicendo, questo è il mio lavoro, io che faccio dopo? Questo esatto, per farle un esempio, per cui è il sistema di mercato che dobbiamo cambiare, non andare a recuperare il cibo. No, faccia capire, non ho ben capito la domanda, scusi. Mi sembra che se il cibo viene buttato è uno spreco, è qualcosa che fa male. Fa male a pensarlo che del cibo con gente che muore di fame venga buttato, fa male. Lei dice però, il mio mestiere è smaltire i prodotti in via di deterioramento, quindi io che faccio? Si pone un suo problema sindacale proprio, di mantenimento del suo posto di lavoro. Beh, potrebbe essere per assurdo rimpiegato nella distribuzione. O bisogna produrre meno cibo, non lo so qual è il problema. Sentiamo cosa mi risponde. Questa domanda non me l'aspettavo onestamente, ma la variegata composizione del nostro pubblico fa sì che uno smaltitore di cibo chiama per porre di perdere il posto di lavoro. Andrea Giussani. Ma sa, la battuta che mi viene, ma poi divento subito serio, è che allora evitiamo di fare pubblicità contro l'incendio dei boschi, perché sennò i pompieri non hanno più da intervenire, no? O i poveri braccianti stagionali, che molte volte sono loro a dar fuoco stessi, sì. È chiaro, è un problema che si pone. Serio, però per diventare serio dico questo. Di fatto esiste una parte di eccedenza che è ineliminabile dal nostro sistema. Per colpa di chi? Per colpa nostra probabilmente, perché noi non accettiamo più di avere una referenza al supermercato, ma di scegliere tra 20-30. E quindi la produzione inevitabilmente produce una varietà di referenze che non andranno tutte vendute. Questo fa parte di un sistema che tutto sommato si è abituato bene. Però il mercato allora, su questo si regge, lei me lo insegna. Se tornassimo all'austerità, certo, non so, dei paesi dell'est, quando andavamo in vacanza nella ex Jugoslavia e vedevamo nei supermercati, sì, le spiagge erano bellissime, c'era una bottiglia d'olio, un pacco di pasta, diciamo, che tristezza. Oggi l'opulenza ci appaga in fondo. Sì, esatto, e quindi la nostra posizione, quella della Fondazione Banco Alimentare, ma di tutti i food bank in Europa, è di prendere atto di un sistema che è così e di intervenire non con solo con analisi, diciamo, sociologiche o filosofiche, ma intervenendo sulla possibilità di aiuto. Non mi piace l'approccio, che non è quell'utopico di dire cambiamo il mondo, smettiamo di mangiare, viviamo semplicemente con le verdure che raccogliamo in terra. È un rapporto realistico nel sistema su cui noi non possiamo fare nulla, cerchiamo di ricavare il massimo, ecco. Esatto. Angelo, buongiorno. Buongiorno, grazie signor Nicoletti che mi ha chiamato. Sì. Dunque io sto qui per questo. 3 anni e so cosa vuol dire non mangiare, perché anch'io, i miei, eravamo 4 fratelli, ecco, io ho imparato. Ha fatto la fame da piccolo, diciamo? Sì. Quella vera, reale, non quella ipotetica. Da quando io mi sono sposato con mia moglie e mia figlia, abbiamo imparato a non buttare via niente. Neanche il pane secco si faceva con il brodo, quel famoso pane e brodo, e si mangiava. In casa mia non ho mai buttato via niente, anche mia figlia sulla bistecca, sulla parte un po' grassa dei bambini, lei la trita e fa le polpette. E ma quando vado nei supermercati con mia moglie dico sempre, prendi quello che scade domani o dopodomani, lo mangiamo subito, se no è inutile andare a prendere altri. Voi siete quasi dei martiri, cioè vi accollate il peso sociale della merce in via di deterioramento, ce la consumiamo noi purché non sia buttata, quindi la vostra è, diciamo, quasi una via ascetica al non spreco. Avete una grande ammirazione, però non è che tutti pensano così. Molte volte queste immagini che lei mi ha suggerito, che conosco benissimo, sono stato allevato io con il mostro della fame, gli sporacchi del non si butta niente, è nel guai, l'angioletto piange, cose del genere, figuriamoci. Per oggi la percezione è lievemente diversa. Roberto. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Sì. Ascolti, una semplice cosa, io la chiamo dalla provincia di Bergamo, terra di centri commerciali, uno ogni 5 chilometri praticamente. Che però è una fortuna per il territorio che ci sia. Una fortuna, io le racconto solo un piccolo episodio. Un mio carissimo amico aveva un papà che faceva il ferroviere. Nell'epoca del ferroviere lui ha comprato l'appartamento e ha mandato a studiare 4 figli. E la mamma faceva la spesa col cosiddetto, se se lo ricorda, libretto blu, certo. Scendeva sotto casa, faceva segnare, a fine mese pagava. Si segna sul libretto e adesso nessuno se lo ricorda. Esatto. Una volta sì. Adesso uno va al centro commerciale, al supermercato, convinto di comprarsi le 3 cose che gli servono. Arriva a casa con un carrello pieno di roba, non dico la metà perché è troppo ed eccessivo, ma buona parte di questo carrello alla fine della fiera viene buttato via. Ora questo progresso... Lo sa, noi viviamo anche perché ci appaghiamo della lussura della merce. Sì, è un piacere che fa parte della nostra contemporaneità andare all'acquisto. Oggi il tempo libero come si impiega? Andiamo a comprare qualcosa. Lei ha visto che nei grandi centri commerciali ci sono delle panchine, dei giardinetti. Sì, e vede che sono pieni di pensionati o di gente che magari viene lì soltanto per appagarsi del gusto del contatto epidermico con la merce. E questo fa parte della nostra... del nostro mondo. È un po' difficile tornare a un momento di austerità generale, ci sarebbe una sofferenza sociale talmente alta che non credo che sia questo lo scopo del banco alimentare. Andrea Giussani, torniamo al punto. Vede, il mondo, la risposta sembra molte volte soltanto in chiave manichea, ma se ho ben intuito voi avete un approccio molto più laico e molto più possibilista. Non è che possiamo tornare ai tempi in cui non si buttava via nulla e nei supermercati c'era soltanto un prodotto. Qual è la via possibile e compatibile con un'idea che non si possa poi sprecare invece tutta questa roba? Sì, la via che noi percorriamo è quella, da un lato, di avere un patrimonio ideale che è dato dalla grande generosità, dal volontariato. Noi abbiamo 1700 volontari in tutta Italia che ci aiutano in quest'opera quotidiana. Dall'altra abbiamo dei donatori, che sono le aziende della produzione e della distribuzione, che rendono disponibili, secondo procedure assolutamente rigorose, gli alimenti, come dicevamo prima, assolutamente commestibili ma non più commercializzati. Ma tutte le grandi catene hanno questa diciamo delicatezza? Diciamo la gran parte, non tutte. Noi continuiamo in un'opera di reclutamento e di sensibilizzazione perché sappiamo benissimo che tutte hanno delle eccedenze, il volerlo negare nasconde un difetto di produzione. Ecco, ma loro da un punto di vista proprio industriale converrebbe darlo a voi invece che affidarlo alla catena dell'eliminazione, diciamo? Certamente a regime vi è un'assoluta parità di costo tra lo smaltimento e la consegna a noi. Vi è un grande vantaggio, che è l'immagine verso i clienti e verso i dipendenti di un impegno sociale che fa onore. Quindi diciamo che alla fine ci guadagnano. Certo, all'inizio devi introdurre una modalità di recupero dagli scaffali dei magazzini che è diversa da quella del buttar via, che pure è procedurizzato, Non è che uno butti così nella pattumiera. Quindi, diciamo, con un piccolo sforzo, i grandi distributori, ma anche i medi distributori, anche qualsiasi negozio, se volesse, che vende prodotti alimentari, potrebbe, modificando lievemente la propria filiera, per cui a un certo punto, ma anche il droghiere tradizionale nella città, nel paese o nel quartiere, comincia a guardare i barattoli, qualcuno lo cambierà col pennarello finché ce la fa a farlo, poi non ce la fa più, dovrà in qualche maniera questa roba eliminarla. Eliminare un qualsiasi prodotto sappiamo che è un'operazione abbastanza costosa, non è che può prendere e buttare nel cassonetto. Quindi saranno, immagino, delle ditte specializzate per la raccolta, il recupero e via dicendo. A lui quasi converrebbe cominciare a pensare che mettendosi in contatto con qualcuno come voi farebbe un'ottima operazione di marketing per la sua attività e alla fine non ci rimetterebbe. Certamente sì, infatti noi siamo promotori della nostra immagine, non tanto per, siamo volontari, quindi non è che abbiamo dei grandi vantaggi nostri, ma per il fatto di rendere consapevoli tutti che una piccola responsabilità in più, un'attenzione in più produce comunque dei vantaggi. Esiste un unico limite, se vuole, che è quello della massa critica. Lei capisce che se noi dobbiamo muoverci per andare a recuperare in un negozietto una piccola scatola diventa troppo costoso. No, dicevo come paradosso. Sì, ma le dico di più, la nostra attività, il progetto City Cibo, che da 10 anni, il banco esiste in Italia da 25 a 24 anni, ma da 10 anni esiste anche il recupero dalle grandi mense, pasti cotti e alimenti freschi, verdura, frutta, pane, eccetera. Noi facciamo il recupero anche in questi luoghi dove è capillare, perché è tutti i giorni, quindi ciò che non viene servito alla grande mensa della grande azienda viene da noi recuperato e dato in giornata a mense per i poveri. Sì, perché un pasto cotto non è che può passare tanto tempo, immagino, andrà riconfezionato, trasformato in una porzione in condizioni igieniche, sterili, secondo le norme, e riconsegnato immediatamente al consumatore finale. Sentiamo sì. Luca, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Lei lavora nella grande distribuzione? Sì, io faccio l'agente di commercio. Allora ci dia qualche elemento, va, per riflettere un po' sulla possibilità di applicare questo metodo. Beh, questo metodo qua, il metodo di smaltimento, non lo vedo tanto, perché io ho assistito anche a una scena, ho visto in una catena importante smaltire del pane fresco, fatto io penso che lo fanno apposta a cucinarlo in eccedenza per poi... Ma perché, qual è, mi spieghi qual è il profitto, come ha visto smaltire il pane fresco? Beh, l'ho visto che a fine serata, perché capita che qualche volta si finisce anche tardi nei punti vendita, l'ho visto buttare nei cassonetti dell'immondizia, proprio gettare. Perciò questo, io sono anche intervenuto, mi hanno detto, ma addirittura sono stato... Ho avuto una brutta risposta, lei pensi per lei, e ha capito. Perché per loro a quel punto quello è soltanto, è come avere una patata bollente, devono smaltirlo, non possono farci altro. Sì, esatto, ma per conto mio sono d'accordo con le aziende che forniscono materie prime per poi dire produci di più, così mi consumi più materia prima, e anche se va buttato, e poi non potete regalarlo questo pane, è pane, non è pane che è finito, non so... È stato dai piedi, per dirle. Però io penso, guardi, lei lo sa meglio di me che nel settore, questi sistemi funzionano se vengono sistematizzati, cioè loro dovrebbero ogni giorno avere una catena, una filiera organizzata, per cui la sera qualcuno viene a prendere il pane in eccedenza, ma dovrebbero avere pure tutti i giorni del pane in eccedenza, loro probabilmente lo avranno in eccedenza uno o due giorni a settimana, altri giorni gli finirà magari prima dell'orario di chiusura, quindi non potendo prevedere, immagino, è una mia ipotesi, poi lei ne sa più di me, non potendo prevedere questa eccedenza, non si sono organizzati un sistema di smaltimento nei confronti di persone che ne farebbero un uso utile, e quindi alla fine la sera, quando gli ne mane troppo, lo buttano via, fanno prima. No, ma è vero, giustamente sbagliano, ma è così. No, ma purtroppo questo vuol dire poi continuiamo a lamentarci che le cose vanno sprecate, che questo, che quello, e purtroppo la realtà è questa, perché io ci vivo in mezzo, ma non solo quello, vedo che smaltiscono, buttano parecchia cosa che una volta i nostri vecchi dicevano, ma come si butta via, perché leggermente, ad esempio come il packaging ammaccato, la scatola aperta. È quello che ha detto prima il nostro ospite. Sì, esatto, cioè io non vedo perché bisogna, ma purtroppo il consumismo ci porta a questo. E purtroppo è una catena anche abbastanza implacabile, sì. Se il costo industriale del regalarlo in beneficenza è superiore a quello del buttarlo via o smaltirlo, nessuno si porrà questo problema. Melog, la realtà condivisa. Zero zero ventiquattro, parliamo con il Banco Alimentare della possibilità di recuperare parte delle tonnellate di cibo che vengono sprecate per una serie di ragioni. Vengono sprecate perché le grandi distribuzioni hanno una loro filiera che consente, anzi obbliga, a smaltire del cibo quando è vicino alla data di scadenza, quando è scaduto o quando viene in parte deteriorata la confezione. Le grandi mense hanno comunque degli sprechi, e tutto questo potrebbe essere recuperato con qualche impegno. Mi scrive un ascoltatore su Twitter, dice: in Irlanda si propongono offerte quotidiane, banchi frigo con prodotti scadenza di un giorno, prezzo dal meno 50% al meno 90%. Andrea Giussani, presidente della Fondazione Banco Alimentare Ollus, le risulta qualcosa di simile, e potrebbe essere una soluzione esporre la merce in scadenza offrendola a un prezzo stracciato? Sì, sono state fatte alcune esperienze di questo genere sia in passato che recentemente, anche sull'onda della crisi e quindi di un bisogno evidente, con alterne vicende e alterni successi, perché in molti casi pur essendo noi consapevoli di questa crisi, in realtà ci piace di più comprare, se ce lo possiamo permettere, compriamo magari qualcosa di meno, ma compriamo i cibi, diciamo, nell'area della normalità. Uno si sentirebbe anche sfigato andare lì, io vado a comprare, esatto, dove costa meno. C'è un problema proprio di dignità, uno si sentirebbe, cioè, come vado, perfetto, lì dove vanno i poveri. Bisognerebbe trovare, perfetto, una maniera di offrire questa cosa come se fosse una cosa fantastica, una scelta di qualità e di posizionamento sociale. Lo fai perché sei più figo degli altri, non perché sei più sfigato, ecco, questo sì, l'ho tradotto in termini grozzi, ma è così, penso. No, ma è così, mi segnalavano alcuni responsabili di supermercati il fatto che queste isole di prezzi, diciamo di prezzi e di prodotti più, non fuori commercio, ma più scadenti, tra virgolette, perché più vicini alla scadenza, venivano frequentate un po' vergognosamente, un po' certo, di nascosto. Sì. Come andare a comprare dei presidi miserandi in farmacia, uno gira intorno, si vergogna di comprare la pomatina per imbarazzanti situazioni. Mustafa, buongiorno. Buongiorno. Senta, io lavoro dentro un supermercato, lavoro nella ditta di smaltimento dei rifiuti e vado dentro un centro commerciale a prendere sempre i prodotti che loro buttano, smaltiscono. Ci stanno, vedo di tutto e di più. Faccia qualche esempio, che vedo questa mattina è il terzo quarto smaltitore che chiama, quindi è una categoria che ascolta molto la radio, mi interessa. Allora, vado là, buttano l'olio, praticamente una scatola d'olio che ci stanno dentro, 6 bottiglie, si rompe una, sporca le altre bottiglie d'olio che costa 5-6 euro la bottiglia, se va bene. Quanto. È una cosa proprio incredibile, pure una, un non lo so, le succhi di frutta, quelle da qui. Se rompo quella a mezzo, buttano tutti e tre. Quindi una cassetta di prodotti liquidi confezionati. Si rompe una bottiglia dalla cassetta, viene tutto buttato, che nessuno... Viene tutto buttato. Chiaro, perché l'etichetta viene sporcata. Tutte le altre sono sani. Tutte le altre sono, magari si può venderle pure al 50% o al 25%. Però spreco, ci sta gente che muore di fame, questi buttano la roba. È una cosa proprio che né Dio né la gente che muore di fame vuole questo. È una cosa proprio, quando ho parlato, cioè, azzardato a parlare con il responsabile, là dico, ma perché non le fanno lo solito della Caritas? Fai affari sua, vai a caricare la roba e vai a fare affari sua. Così, e questa è la risposta che vede, non è il primo ascoltatore che ci dice una cosa del genere, che ormai la catena è così, nessuno esce, ormai sono persone inchiodate nella loro regola, sanno che loro devono smaltire, fine, non si pongono il problema. È proprio una questione, secondo me, di cultura, dovrebbe entrare come un fatto positivo, non l'interruzione di un processo industriale che, se soltanto una merce è contaminata leggermente nell'aspetto esteriore, quindi è brutta e quindi l'occhio vuole la sua parte, quindi nessuno comprerebbe una bottiglia d'olio anche al 90% in meno se è macchiata l'etichetta, chissà cosa penserebbe. Interessante, grazie Mustafa. Massimo. Sì, buongiorno Nicoletti, sì. Buongiorno agli ascoltatori. Una gentilezza, io lavoro nel settore ittico, quindi anche nella grande distribuzione, porto una testimonianza forse un po' in controtendenza con quello che state dicendo, che però non può essere negata. Siamo il qua. Fatto che nella grande distribuzione ci sia comunque anche un cartello, proprio nominato cartello, per mantenere determinati prezzi molto alti. Le faccio un esempio molto coerente. Parlo del fresco, parlo del pesce, mi occupo di questo. Ci sono catene di grande distribuzione, anche molto note, che verso fine giornata promuovono al 50% il pesce fresco per finirlo, smaltirlo. Eh beh, certo, se no se rimane un altro po' si incammina da solo verso l'uscita, chiaro. Certo. A volte è anche pesce scongelato, quindi ci sono dei criteri di governabilità. Che andrebbe buttato comunque a fine giornata. A parte che oggi, mi scusi, ma il pesce non è tutto congelato comunque. Il pesce che anche viene venduto come fresco deve essere comunque passato attraverso un processo di congelamento, o no? Sì, c'è un processo, diciamo, di abbattimento Nagasaki. Per abbattere, certo, è chiaro. Quindi quello comunque deve essere consumato. Sì, quello che le voglio dire è questo, che fresco comunque decongelato non è che la mattina dopo deve essere per forza buttato via. Il fatto è che le grandi catene di distribuzione tengono ad esempio il pesce spada a 45 euro pezzo intero e a 55 affettato, e faccio dei prezzi di riferimento, sì. Assolutamente, dopodiché se non viene venduto nell'ultima mezz'ora, la mattina dopo lei lo trova nel cassonetto dietro alla grande distribuzione. Per loro non potrebbero farne altro. E perché questa convenzione tacita fra le grandi catene è di non abbassare mai i prezzi, sennò la gente aspetterebbe. Io per fare la spesa, invece che andarci la mattina, ci vado il pomeriggio e spendo meno. Esatto. Come accade ai mercati dove ci sono i produttori, gli ortolani. Se uno va verso le 14, è chiaro, te la regala, te la tira indietro la roba, è logico. Volevo proprio fare questo punto, cioè il mercato, dobbiamo fare i conti anche con un mercato che vuole mantenere un prezzo di marginalità elevato, a discapito a volte anche di una catena alimentare che comprendo perfettamente debba essere... Le leggi di mercato non prevedono la pietà o la beneficenza o l'occhio verso le persone indigenti, a meno che questo non diventi un'occasione di marketing, io almeno la vedo così. Se questo diventasse un elemento di pregio per quell'attività, di dire noi riusciamo a confezionare talmente bene questa attività, forse ne avrebbero dei vantaggi. Gabriella. Pronto, buongiorno Nicoletti. Io lavoro in una pasticceria e ho lavorato anche presso altre pasticcerie. La sera comunemente, insomma, succede che qualcosa avanza, ma che potrebbe essere dato anche il giorno dopo, pur non essendo possibile metterlo sul banco, ad associazione di volontari. Ad esempio, cosa avanza nelle pasticcerie? Ma magari qualche bignè ripieno con crema o la crema è pericolosa. No, ma il giorno dopo, se tenuta nella giusta temperatura, è mangiabilissima, non ha il processo di deterioramento così rapido, a meno che non la si tenga fuori. E io ho provato qualche volta a parlare con i proprietari di queste pasticcerie, anche perché magari sono venuti dei volontari per portarlo in chiesa. La risposta? E non c'è stato nessun verso. E allora mi sono inventata che ho un'amica che lavora presso una casa di cura per i vecchietti e la mattina dopo, di nascosto, mando qualcosa a loro. E se no cosa succederebbe di questi cornetti con la crema? Si buttano. Ah, si buttano tranquillamente? Si buttano. Si buttano e basta, e questo a me duole, non lo so, ecco, questi vecchietti stanno in un pensionato dove magari il dolce non lo vedono mai, e che costa tutto sommato? Un vassoio e un incarto. Paolo, buongiorno. Buongiorno, salve, senta, io volevo dire una cosa, io lavoro per un'azienda che distribuisce alimentari per ospedali. Abbiamo un pubblico vastissimo di distributori di alimentari, non lo sospettavo, vado avanti. Ecco, è interessante. Praticamente succede questo, noi chiaramente distribuiamo alimentari, li vendiamo, però succede spesso e volentieri che magari qualche prodotto fresco, carne che sia, o anche surgelato, anche in scadenza magari di uno o due giorni, viene smaltito, viene congelato e poi buttato via. Ci sono delle aziende che ritirano alimentari, sì, quello di cui c'è, usati, chiamiamoli così. E cosa ne fanno? Li buttano via o li ci fanno, che ne so, cibo per cani, cose del genere? Ma non lo so, cioè non sarebbe neanche... Adesso mi salteranno addosso tutti gli animalisti. Anche i cani sono degli esseri viventi, non devono mangiare roba scaduta magari che l'uomo butta via. Beh, adesso che la fettina scaduta non la possa mangiare il cane, cioè io ho allevato, ho avuto animali per tanto tempo, non è un problema che il giorno dopo la scadenza la fettina scaduta un animale la può mangiare benissimo, non gli succede nulla. Sì, ma il problema è che questa roba viene messa tutta insieme, che sia carne, che sia pesce, se viene fatto un pastone praticamente, anche di carne confezionata. E allora io avevo... E con questo pastone che ne fanno poi? Ah, io questo non lo so, so solo che carichiamo questi camion e vanno via, non sappiamo dove vanno, non siamo tenuti a sapere dove vanno. Ma ci fanno i views, cosa ci fanno, cose del genere? Ma non ho idea. Il problema è questo, che magari se c'è qualche articolo che scade, magari scade o domani o dopodomani o fra tre giorni, abbiamo proposto, guardi, se magari ce la metti, non so, un euro al chilo, il dipendente, che sia io che sia un altro, lo compriamo invece di buttarlo via. E però non si può questo, non si può. Non si può magari fare uno omaggio. Mi rendo conto che ci sono dei protocolli molto rigidi su questo, anche perché se poi qualcuno li becca che interrompono la catena dello smaltimento, che deve essere osservata, deve avere delle regole igieniche di stoccaggio e via dicendo, poi passa a loro delle noie. Andrea Giussani, vediamo se ho detto molte bestialità intuendo alcune cose con i nostri ascoltatori. È vero che a un certo punto del cibo smaltito si fa un grande pastone che non sa che fine faccia? Beh, noi non ci occupiamo dei pastoni, ma di quello che è recuperabile, quindi io francamente non le so dire. Noi abbiamo esperienze appunto come quelle descritte di punti di vendita, catene importanti. No, lo sa perché lo dico, che se ci fosse un mercato del reimpiego del pastone, forse a loro conviene venderseli come pastone piuttosto che darli a voi. Ma sì, ma io credo che, non voglio colpevolizzare produzione e distribuzione, io credo che loro, che la produzione e distribuzione debbano giustamente perseguire l'obiettivo della salute dell'azienda, del profitto e della remunerazione dei dipendenti, quindi è giusto, ma quello che a noi interessa è dire che all'interno di questo processo del nostro mercato odierno, della nostra società, esiste una possibilità virtuosa di dare valore anche a ciò che sta per perdere valore o che avrebbe perso valore perché è gettato. E certo, in forma industriale, quindi con dei processi assolutamente tutelati, noi subiamo dei controlli che voi non avete l'idea, cioè il Banco Alimentare subisce gli stessi controlli che subiscono tutti i processi di produzione alimentare e distribuzione alimentare, perché è giusto che noi spostiamo merce sia da un punto di vista fiscale che da un punto di vista di igiene alimentare, assolutamente corrispondente a quella che va a finire sulle nostre tavole quotidiane, perché sulla mensa dei poveri deve arrivare un alimento che è tutelato allo stesso modo. Questo sia chiaro, non è un alimento di serie B, che sono cose, esatto, poveracci, esatto, li diamo a loro, li daremo, li butteremo nel pastone dei maiali, no, non è così, sì, esattamente. Quindi, è cibo totalmente recuperato, recuperato non vuol dire deteriorato. Assolutamente, quindi questo per dirle che ogni tipo di lamentela che ho sentito sul si butta è assolutamente un'osservazione della realtà. Noi di questa realtà cerchiamo di cogliere l'aspetto più industriale, infatti più che non un'opera di carità, se vuole. Noi anche per le dimensioni siamo, io la chiamo così, è un'impresa di logistica che fa carità. Per cui si adopera per spiegare, educare, se vogliamo usare una parola grossa, indurre chi produce e chi distribuisce e le mense, i catering, a capire che c'è un'altra possibilità, quella di guadagnare, di dare valore a qualcosa che ormai non l'avrebbe più e che butterebbero, non avrebbero più profitto da questo, anzi dei costi. Ecco, ci fermiamo un istante, diamo le informazioni del traffico. Mi scrive un ascoltatore su un SMS che i grandi camion che portano via dalla distribuzione i cibi da smaltire vengono pesati all'uscita e ripesati quando arrivano alla consegna, proprio per paura che qualcuno degli operatori dello smaltimento se ne prenda qualcosa. Melog, la realtà condivisa. .800240024, parliamo del cibo sprecato. È un argomento appassionante perché sembra paradossale: da una parte c'è l'inflessibile regola del mercato che fa sì che comunque debbano essere eseguiti dei protocolli anche per lo smaltimento, rigidissimi, d'altra parte c'è il buon senso anche delle persone che numerose hanno chiamato, che lavorano proprio in questa catena di smaltimento, dicono: ma delle volte vediamo delle cose ottime, buonissime, vengono buttate. Cerchiamo di capire come può essere anche industrializzato il processo di recupero, di ridistribuzione alle persone che hanno bisogno. C'è chi si arrangia, ci prova con sistemi artigianali. Mi viene segnalato un negozio di alimentari in quartiere Piazza Vittorio qui a Roma, che la sera era abituato a distribuire ai poveri le cose che avanzavano, che non poteva più vendere, ma si era fatta una fila talmente imponente davanti a quel negozio nelle settimane che ha dovuto smettere con questa iniziativa. Paolo da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Io porto la mia esperienza. Fine anni 90 ero guardia alla zona compattatore e scarico merci di un grosso centro commerciale di una catena a livello europeo, e tutte le sere si vedevano chili e chili di alimentari e non buttati via. Normale è la domanda chiedere: ma non si potrebbe dare a qualcuno che ne ha bisogno? E c'era, appunto, come ha detto l'altro ascoltatore, questa quasi rabbia per nascondere un qualcosa che non andava bene. Sì, perché ci si rende conto anche chi è, diciamo, preposto a questo tipo di processi di smaltimento e esegue, sì, quello che lui dentro di sé qualcosa sente, che sta facendo qualcosa che eticamente non è poi così giusto, però cosa deve fare, chiaro? Esatto, ma poi conoscendo i capi reparto e andando un po' entrando in confidenza, venne a sapere che ordini dall'alto vietavano appositamente di rimettere, tra virgolette, sul mercato anche per beneficenza questi beni. E parlo di frutta, parlo di detersivi, quindi c'era qualcuno dall'alto che diceva no, perché è meglio buttarlo via, così al massimo qualcun altro lo ricomprerà. È chiaro, poi inquina quello che è il meccanismo, esatto, di produzione, è certo, figurati, esatto. Questo è molto comprensibile. Adesso abbiamo al telefono, oltre a Andrea Giussani, presidente della Fondazione Banco Alimentare Ollus, che ha parlato con noi, ci ha spiegato questo meccanismo, una persona che si occupa appunto proprio del punto terminale, dell'utente finale di questa filiera, è frate Clemente Morigi. Buongiorno. Buongiorno. Che è direttore delle opere della Fondazione Fratelli di San Francesco. Lei si occupa, diciamo, che quella che è la più grande mensa dei poveri di Milano, mi sbaglio? Di per sé sarebbe la seconda, la prima è quella dei padri Cappuccini, via Le Chiave. Però sempre stesso ordine, più o meno. Sì, sempre frati, sì, ecco. Sì. Questa è un'antica missione che avete voi, io mi ricordo. Sì, da sempre. Sì, ma io vengo dalla campagna umbra in cui il frate cercatore era quello che girava prima col somaro e poi con l'ape, andava di campagna in campagna per mietitura e battitura. Sì, mentre al tempo si faceva l'accoglienza e l'assistenza dei poveri, adesso puntiamo molto sull'integrazione. L'integrazione è ormai l'obiettivo di tutte le organizzazioni, compresa la nostra, perché abbiamo dovuto varare una serie di iniziative che si muovono nella linea dell'integrazione, tra cui la scuola italiana, corsi formativi, ambulatorio, e in più abbiamo più di 4 case in Milano dove ospitiamo la bellezza di 750 persone. Ecco, questa mattina però noi parliamo del cibo. Descriva quello che è, diciamo, il meccanismo di rifornimento di una mensa dei poveri. Quanto siete legati a questa idea che si sprechi tanto e per voi sarebbe indispensabile? Noi abbiamo la fortuna di essere agganciati al banco alimentare, che ci dà la bellezza del 50% di tutto il nostro fabbisogno. Noi a mezzogiorno abbiamo al minimo 600 persone che vengono tutti i mezzogiorni, e alla sera arriviamo a volte anche a 1000 persone, perché durante il giorno molte persone vanno al lavoro, quindi non possono venire ad usufruire della nostra mensa. Ci sono persone che hanno comunque un lavoro, che però per indigenza vengono a mangiare alla vostra mensa. Che hanno lavoro e che non hanno lavoro, la tipologia è variegata. Mi fa qualche esempio per capire un po', perché forse non c'è un'esatta concezione in tutti di chi sia oggi il povero medio. Noi passiamo del clochard solito, il senza dimora classico, sempre, sì, anche se analizzando poi vediamo che di clochard c'è ben poco. Poi naturalmente abbiamo gli ammalati mentali, abbiamo gli ubriachi, i drogati, eccetera. Per venire ai giorni nostri abbiamo tutta una serie di povertà che sono emerse in questi ultimi anni. Diciamo che voi siete il terminale unico, ultimo, in cui vedete gli esiti di tutte le grandi idee, le grandi iniziative che in realtà non sempre hanno dato i frutti che volevano. Perfetto, lei ha azzeccato. E noi abbiamo adesso qui in questi ultimi anni parecchi papà separati, parecchi carcerati, parecchi anziani che non ce la fanno più arrivare alla fine del mese, che chiedono a noi di poter usufruire di un pasto caldo a mezzogiorno e sera. E poi abbiamo ovviamente molti giovani, e adesso siamo arrivati ben al 40% in base alla nostra banca dati, il 40% delle persone italiane, mentre prima era sceso al 30 e al 33, adesso si è elevato al 40%, e abbiamo anche molti giovani che non riescono a trovare lavoro e vengono da noi chiedendo, a parte che le aiutiamo a fare il curriculum, e gente non molto qualificata dal punto di vista professionale, che vengono da tutte le parti d'Italia in cerca di fortuna in quel di Milano. Quindi anche molti giovani che vanno dal 18esimo di età fino al 30esimo di età. E poi abbiamo ovviamente molti papà separati, molti ex carcerati e molti anziani, e come ho detto altre volte, nell'ultimo Natale del 2012, mai come nel Natale ultimo, abbiamo visto diversi nuclei familiari italiani. Cioè intere famiglie che vengono a fare il pranzo di Natale alla mensa dei poveri. Sì, anche se noi dopo abbiamo così evitato che venissero tutti i giorni, compresa domenica, perché avevano dei bambinetti ed era bene non far venire i bambinetti in mensa. Quindi abbiamo pensato, grazie dei volontari, di portare nella loro abitazione il pacco viveri. Quindi si confezionano questi pacchi viveri e poi dopo noi li portiamo a casa di queste famiglie in difficoltà, proprio per evitare che le famiglie portino i bambinetti nella mensa. Ecco, mi sembra che il quadro che ci fa Padre Morigi è interessante, anche se abbastanza triste. In realtà il discorso che abbiamo fatto oggi dello spreco, della necessità di stabilire un processo industriale anche per il recupero, non è che va a favore di quello che nell'immaginario comune, il classico povero, la persona indigente, che fa parte ormai di un'immagine sedimentata. No, sono persone che potremmo essere noi domani, sono nuclei familiari, padri separati, studenti o ragazzi che non trovano lavoro. Quindi il problema interessa lievemente di più in generale la società, non è soltanto legato a un senso interiore di fare del bene o sentirsi caritatevoli, no, è un problema reale, che in realtà molte delle cose che noi buttiamo potremmo reimpiegarle per vivere meglio tutti, perché i poveri potremmo essere anche noi. Grazie Fabrizio Intonti, grazie a Valerio Rocchetti, ci sentiamo domani.